Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Quando sono le 13:33 minuti e 25 secondi, siete all'ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore, il programma Italia in controluce che vi racconta ogni giorno l'Italia in due edizioni quotidiane. La chiamano la Platì del Nord per la storica presenza delle famiglie Barbaro e Papalia. Molte inchieste hanno accertato il radicamento dell''ndrangheta qui in questo paesone dell'Interland di Milano, ma dopo la malavita organizzata c'è un altro ciclone giudiziario che investe Buccinasco. Un'inchiesta della Procura di Milano che ha fatto arrestare ieri il sindaco e non solo per una storia di corruzione, una storia di appalti. Proprio a Italia in controluce circa un anno fa vi avevamo già raccontato Buccinasco e quello che significava e significa ancora oggi la presenza emblematica e drammatica della criminalità organizzata. Oggi Raffaella Calanda torna a occuparsene tra tangenti e cosche con una delle inchieste di storiacce che tornerà sabato alle 13:15. Quando hanno saputo degli arresti al Lions Bar di Buccinasco, hanno subito pensato a questioni di boss e malaffare, perché qui, in questo Interland milanese, le inchieste di 'ndrangheta si susseguono ormai e lo stesso bar ci è finito dentro una volta. Ma l'ultimo ciclone che ha travolto questa landa di cemento e palazzi è un malaffare di altro tipo. È una storia di soldi in cambio di favori, di regali in cambio di appalti, in una parola di tangenti. Una storia che ha decapitato l'amministrazione portando in carcere proprio il sindaco, Loris Cereda, di centrodestra. È stato arrestato il sindaco di Buccinasco. Oltre al sindaco anche un assessore. Un assessore, un consigliere comunale, un commercialista, un costruttore edile e un dirigente di un mercato. Fabrizio Rella, alla guida della Guardia di Finanza di Legnano, per un anno ha seguito soldi, appalti e lavori pubblici di questa propaggine milanese, ribattezzata nel tempo la Platì del Nord, tanto numerosa e radicata è la presenza delle cosche da queste parti. E quello composto dopo mesi di indagini è un quadro di privato mercimonio della funzione pubblica, come scrive il GIP Gaetano Brusa. Un quadro dove ci sarebbe una tangente da 10.000 euro e almeno 3 auto di lusso, dietro l'assegnazione di appalti come la cura del verde, l'illuminazione e soprattutto la realizzazione del Drive Auchan, un avveniristico supermercato che prima di finire negli atti d'indagine era già diventato un tema politico per via della variazione d'uso dell'area, come ricorda Maurizio Carbonera, consigliere d'opposizione e già sindaco. Questa trasformazione di quella struttura che prima era una concessionaria Benz Mercedes, che era stata chiusa a seguito di una truffa nei riguardi di persone che avevano acquistato delle macchine che in realtà poi non hanno potuto ritirare, le hanno pagate senza poterle ritirare, c'è stata questa trasformazione che richiedeva anche l'utilizzo di spazi pubblici, di spazi a verde pubblici. E noi ci eravamo manifestati contrari come opposizione perché ci sembrava che la valorizzazione degli spazi che venivano ceduti fosse scarsa, non fosse adeguata. Su quell'area poi era intervenuta l'ARPA sequestrandola, come aveva sequestrato un altro paio d'aree a Buccinasco, per presunti inquinamenti, nel senso utilizzi di materiali impropri, ma dovrebbero essere ripresi i lavori per la realizzazione di questo specie di mercato telematico dello Auchan. Il motore delle auto è un sottofondo costante negli stradoni larghi di quest'unica periferia milanese e anche il rombo di motori di eccezione, come quello di due Ferrari e di una Bentley, ha contribuito ad investire l'amministrazione comunale perché, secondo gli inquirenti, chi vinceva l'appalto a Buccinasco diceva grazie al sindaco a modo suo, anche con queste auto VIP date in prestito per le vacanze o con orologi di lusso sequestrati al primo cittadino. Accuse che hanno il suono della beffa per quanti ora ricordano quel richiamo alla trasparenza dello stesso sindaco Cereda che propose di mettere online le sue telefonate. La trasparenza deve essere data per acquisita, cioè oggi sta capovolgendo il meccanismo per cui chi fa politica, soprattutto politica locale, quindi con tanti problemi da risolvere, dovrebbe essere guardato con un occhio di riguardo dalla gente e invece si sta capovolgendo questa cosa, per cui chi fa politica per ragioni mediatiche viene messo sotto una lente di ingrandimento come se fosse per definizione un delinquente. Non voglio più che ci siano dubbi sull'operato di politica. Allora, se devo guardare la gente che pensa, siccome quello fa politica, gli staranno intercettando il telefono e chissà cosa ha detto un'ora fa al suo cellulare, bene, preferisco che lo sappiano tutti. Con i magistrati, perché chiedono collaborazione ma non si fidano di noi, lamentava, e con gli scrittori, compreso Roberto Saviano, a cui negò la cittadinanza onoraria, più volte lo stesso sindaco di Bucinasco aveva avuto a che dire, soprattutto per quel marchio poco glorioso conquistato dalla sua cittadina di essere la platì del nord, secondo quanto gli stessi boss calabresi si dicevano al telefono. Innanzitutto, io in consiglio comunale fece una proposta e dissi: non facciamo il marketing di Saviano, facciamo il marketing dell'antica Nuova. A Bucinasco nel 2009, su indicazione di fonti di intelligence anglosassone, arrivò anche lo stesso scrittore inglese Frederick Forsyth, che ha trasformato nel Cobra le sue ricerche sull'Andrangheta, come ha raccontato ad Alessandra Tedesco. The trail led to for the European as opposed to the American cocaine trade. Il commercio per gli europei, diversamente dagli americani, il commercio di cocaina intendo, arriva dalla Colombia passando per l'Africa occidentale, per arrivare poi nell'Europa del Sud, in particolare in Spagna e Italia. Così ho fatto ricerche in entrambi i paesi. In Italia le mie fonti hanno puntato il dito contro l'Andrangheta. Io volevo andare in Calabria, ma mi hanno detto che non ce n'era bisogno. Mi hanno detto di andare a Milano, in particolare in tre centri dell'Interland, che sono una mini Calabria. C'è la maggior parte del traffico europeo di cocaina. Milano è la capitale europea del traffico di droga. Milan is now the drug capital for Europe. I mean, I began researching this book about 2 years ago. Ho iniziato le ricerche 2 anni fa. Ho iniziato sapendo veramente pochissimo sulla cocaina. Sono stato in Gran Bretagna a parlare con la polizia. Sono stato a Washington. Ho parlato con gli agenti della DEA. Mi hanno detto che 300 tonnellate di droga all'anno finiscono negli Stati Uniti. Le altre 300 in Europa. Il primo paese che la importa è la Spagna. Secondo importatore, l'Italia. I più grandi consumatori in Gran Bretagna. Ho seguito le tracce che mi hanno fornito gli esperti. Questo è quello che ho fatto e ciò che veramente avrebbe fatto qualsiasi altro reporter. So much of it is really what a reporter would do, which is what I was, of course. E anche questo è il marketing negativo, più volte additato dallo stesso sindaco, che però è lui stesso ora, per dirla con le sue parole, a fare cattiva pubblicità alla sua Bucinasco, finendo in carcere per una storia di corruzione, appalti e soldi. Una storia che sembra inevitabilmente spalancare le porte a mesi di incertezza politica e di vuoto, con una prospettiva che a molti sembra appesantire il grigio dell'orizzonte. Ed è incertezza ora lo stato d'animo che si registra pure nella stessa opposizione, di cui fa parte l'ex primo cittadino, destinatario un tempo da sindaco delle minacce dei clan, poi anche di lettere anonime diventate anche esposti. Mi era arrivata una lettera anonima che riportava una serie di situazioni riferite all'assegnazione dei lavori dell'illuminazione pubblica. Qualche giorno prima era dimesso il presidente della commissione lavori pubblici. Il momento che sto vivendo io, ma lo stanno vivendo tanti cittadini di Bucinasco, è di scoramento, nel senso che è una malattia che il mio comune si porta dietro dagli anni 80, da cui ha difficoltà a uscire. Probabilmente ci sarà il commissario per un anno e 3 mesi, per cui un anno di vuoto, il comune di una delicatezza particolare, onestamente non mi sembra che possa essere di grosso ausilio rispetto alla vita pubblica, che già questi fatti mettono molto a repentaglio, molto in discussione, creano sconforto, scoramento, delusione. Il ricambio non è affidato a un confronto di idee, ma è affidato al fatto che vengono commessi degli atti di illegalità e rispetto a questi interviene la magistratura. uno scoramento forte, come si registrò nel giorno in cui le relazioni dell'antimafia scrissero che a Bucinasco non si spara più perché il controllo mafioso è ormai totale. Grazie a Raffaella Calanda per questo reportage su Bucinasco. Normalmente noi a Italia Controluce realizziamo inchieste e reportage magari un anno prima e poi torniamo nuovamente per vedere se le cose stanno proprio così, e le cose purtroppo sono peggiorate. Italia Controluce, la seconda edizione. Siamo su Facebook, Twitter, siamo anche sul nostro sito radio24.it, dove potete scaricare tutte le puntate e attraverso il podcast, oppure semplicemente ascoltarle, oppure comunicare con noi via mail in controluceradio24.it. Domani torniamo alle 6.30 con un reportage di Gennaro Gribolizzi da Potenza sul caso Claps.